Qui mi fa piacere di essere presente alle vostre iniziative. Stasera parliamo di un libro che, se vogliamo, è un piccolo libro, senza nessuna, come dire, nessuna valutazione di merito. È un piccolo libro che però affronta un grande tema, o perlomeno si propone in qualche modo di compiere un primo approccio ad un grande tema. Un grande tema che è un grande tema non soltanto della storia italiana, ma è un grande tema della storia europea. Ed è un grande tema che, come probabilmente sanno coloro tra i presenti, forse qualcuno dei presenti appunto lo è, che ha vissuto sulla sua persona o sulla persona delle sue famiglie questa esperienza, un tema che per lunghissimo tempo è stato messo ai margini sia dell'attenzione dell'opinione pubblica che anche dell'attenzione della storiografia italiana e internazionale. Il tema non è soltanto italiano, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nella fase finale della guerra e poi nei due, tre, nel caso dell'Istria e Dalmazia, 5, 6 anni che seguono alla fine delle ostilità nel 1945, in molte aree d'Europa si verificano poderosi spostamenti di popolazione. Dico poderosi usando un aggettivo in qualche modo, non lo so, bello. Invece in realtà di bello non c'è proprio nulla. Intendo poderosi perché questi movimenti di popolazione coinvolgono milioni di persone. Poderosi perché costano a milioni di persone in tutta Europa la perdita della loro casa, delle loro radici, dei loro beni, in molti casi della loro identità culturale e linguistica. Forse non è il caso degli istriano-dalmati, che hanno saputo poi, ci penso faticosamente, difendere la loro identità anche nella diaspora post-esodo, ma è il caso di molte altre popolazioni dell'Europa che si vengono a trovare sconvolte da questo gigantesco fenomeno di spostamenti forzati di popolazione. Quando dico forzati, lo intendo in senso lato, perché, come dire, è ben probabile che almeno in parte, forse in piccola parte, delle persone o delle famiglie o dei gruppi abbiano deciso di spostarsi in qualche modo non direttamente costretti, non direttamente costretti da un'ordinanza oppure da una pressione militare fisica nei loro confronti, però forzati in senso lato perché comunque se anche non, in alcuni casi non ci sono state ordinanze, disposizioni o pressioni dirette nei loro confronti, comunque questi spostamenti non sono stati delle scelte compiute liberamente dalle persone, ma sono state scelte che si debbono spiegare, si possono spiegare soltanto alla luce delle drammatiche e sanguinose conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. In gran parte questi spostamenti di popolazioni sono, come dire, il sigillo finale alla Seconda Guerra Mondiale e colpiscono i vinti. Colpiscono i vinti. O meglio, coloro che alcuni consideravano i vinti. Il caso naturalmente più macroscopico è rappresentato dai tedeschi. Si dice 11-12 milioni, qualcuno addirittura parla di 15 milioni di cittadini di lingua e di cultura tedesca, poi il concetto naturalmente è molto molto generico e molto vago in alcuni aspetti, che tra il 1944-45 e il 46-47 furono costretti ad una frettolosa e sanguinosissima fuga dai territori dell'Europa orientale, nei quali in parte vivevano da secoli, in parte si erano insediati da poco, seguendo il processo di espansione del regime nazionalsocialista, furono costretti a fuggire dalle violenze dell'Armata Rossa, che avanzava verso Occidente, e accanto alle violenze dell'Armata Rossa, dalle violenze delle popolazioni, diremmo così, autoctone, anche se erano spesso autoctoni anche loro, che approfittarono della situazione per vendicarsi. per vendicarsi, perché non dobbiamo dimenticare che agli occhi, come dire, dell'opinione pubblica in quel momento, i tedeschi in generale non solo erano gli sconfitti, ma erano anche coloro che in generale avevano colonizzato, occupato, violentato, massacrato nei territori dell'Europa centro-orientale tra il 1939 e il 1943-44. E anche l'esodo, che appunto è esodo forzato, largamente forzato, degli italiani di Istria e Dalmazia è anch'esso da considerarsi, da collocarsi all'interno di questo schema della vendetta contro i vinti. Però non dobbiamo nemmeno dimenticare che questi spostamenti di popolazione in realtà non coinvolsero soltanto i vinti, ma coinvolsero in parte anche i vincitori. Faccio l'esempio, per esempio, della Polonia. Voi sapete tutti che quando c'è la guerra, i confini della Polonia finiscono per trovarsi 200 chilometri spostati a Occidente rispetto a quanto non fossero i confini della Polonia del 1939. Questo spostamento a Occidente dei confini, che corrisponde però a un taglio di territori a Oriente, è voluto dall'Unione Sovietica, come noto, che si prende dei territori nella parte orientale della ex Polonia e concede, tanto i tedeschi erano vinti e non potevano reagire, e concede ai polacchi ampi territori a Occidente fino alla linea segnata dai due fiumi Oder-Neisse, che ancora oggi rappresenta il confine tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Polacca. Beh, i polacchi sono vincitori, anche se magari molti polacchi poi si sentirono non fra i vincitori alla fine della guerra. Ebbene, un milione e mezzo di polacchi sono stati costretti, anche loro in qualche modo costretti con forza e con violenza, ad abbandonare le loro terre a Oriente, terre dove magari vivevano da generazioni e generazioni, e a spostarsi su terre loro concesse a Occidente. Certo, si vennero a trovare in condizioni forse migliori. Le province orientali della Polonia erano molto depresse, molto sottosviluppate dal punto di vista economico e sociale, si vennero a trovare invece in un territorio che era, se vogliamo, socialmente, culturalmente, economicamente più avanzato. E, come dire, se facessimo un conteggio dei costi-benefici, in qualche modo ne hanno tratto dei benefici. Però, anche se questo tema è stato studiato molto poco, perché naturalmente poi alla fine della guerra nessuno voleva ammettere che l'Unione Sovietica liberatrice aveva costretto un mezzo di polacchi con la forza a spostarsi, però per molti di loro comunque questo spostamento costò sul piano morale, sul piano psicologico, sul piano sociale. Fu comunque uno sradicamento, anche se poi magari si vennero a trovare in una situazione, tra virgolette, migliore. Ma ci sono anche spostamenti, quindi ci sono degli spostamenti di popolazioni forzati che coinvolgono i vinti, che sono stati anche gli occupanti, e questo è lo schema che vale in parte per l'Istria e Dalmazia, dove certamente gli italiani o molti italiani non erano occupanti, perché vivevano lì da generazioni, da secoli, però nell'immaginario collettivo della Jugoslavia che si stava formando sulle armi dei partigiani comunisti di Tito nel 45-46, tutti gli italiani in qualche modo in quel momento erano stati fascisti, tutti erano stati occupanti, tutti erano stati cattivi, naturalmente ivi compresi i cattivi, perché c'erano stati italiani occupati che soprattutto nella provincia di Lubiana e poi nei territori della Dalmazia meridionale, del Montenegro, occupati dalle truppe italiane dopo la primavera del 1941, sappiamo che politica d'occupazione hanno fatto in Jugoslavia. Una politica d'occupazione a ferro e fuoco, sulla quale anche qui si è scritto molto poco. Per lungo tempo, e forse ancora oggi, in parte prevale l'idea così che l'italiano, rispetto al tedesco, abbia compiuto messo in atto delle politiche militari d'occupazione relativamente moderate, relativamente buone, relativamente tolleranti nei confronti della popolazione civile. Noi sappiamo invece che questo non è vero, e oggi incominciano, in questi ultimi anni, incominciano ad apparire i primi studi che mostrano chiaramente la durezza delle politiche di occupazione. Questo che sto dicendo naturalmente non è un ragionamento che farò in tempi molto brevi, vi tranquillizzo, giustificativo. Sto, come dire, cercando di dipingere a brevi tratti la situazione di allora e la percezione che allora si aveva delle cose. Non è un giudizio morale di nessun tipo, ecco. Anche perché distinguere i buoni dai cattivi in quella seconda guerra mondiale non era facile, e nemmeno alla fine della seconda guerra mondiale era facile. C'è poi, come ho detto, ci sono anche degli spostamenti di popolazioni voluti dalle scelte della grande politica, il caso della Polonia, e poi ci sono invece anche spostamenti di popolazioni che si verificano all'interno di, diciamo così, uno Stato dove non ci sono vincitori e vinti. Ricordiamo l'Unione Sovietica, il regime staliniano inizia a fare i conti con le etnie considerate ostili o pericolose o inaffidabili già durante la guerra, perché ha paura che queste etnie, per esempio i ceceni, gli ingusci del Caucaso, i tatari di Crimea, i coreani sul confine asiatico, possano passare dalla parte del nemico. Ma a guerra finita, a differenza di quanto si aspettavano molti sovietici, cittadini russi, che speravano che finalmente, finita la guerra, si potesse tirare un momento di respiro dopo un praticamente periodo ininterrotto dal 1918 in poi di tensioni, di guerre, di lotte, di sacrifici, di massacri. Invece queste tensioni e queste lotte, questi sacrifici e questi massacri continuarono anche negli anni dell'immediato secondo dopoguerra. Quindi è un fenomeno generale di dimensioni europee, quello del quale stiamo parlando, e che presenta delle situazioni molto diverse le une dalle altre, perché i contesti, i quadri sono anche molto diversi gli uni rispetto agli altri, però è un fenomeno che in generale poi è stato messo in secondo piano nella memoria collettiva. Anche qui i motivi sono diversi. Per esempio nel caso della Germania, dove questo spostamento di popolazioni ha avuto le sue dimensioni massime e anche la sua massima mortalità, perché si stima che 2, forse 3 milioni di tedeschi siano morti, non magari direttamente uccisi, ma morti per fame, per freddo, per malattie, in conseguenza di questo spaventoso esodo, la più gigantesca Völkerwanderung della storia dell'umanità, la più gigantesca migrazione di popoli della storia dell'umanità che si è svolta in 3 anni. Anche lì è successo che poi questa memoria è stata messa in secondo piano. Non è, come dire, questo forse non consola nessuno, ma non è una peculiarità dell'esodo istriano-dalmato che poi dopo non se ne sia più parlato. Questo non consola certamente le persone che ne sono state coinvolte, né vuole essere consolante il mio discorso. Il mio discorso è un po' diverso. Anche nel caso della Germania, a un certo punto questo fenomeno ben presto è stato messo in secondo piano. Nel caso della Germania è stato messo in secondo piano da un fuori, ma si è venuta al centro della guerra fredda, divisa prima, come dire, da un confine e poi dal 61 da un muro, da un armato. E quindi, come dire, una serie di altre questioni della storia recentissima dei tedeschi, tra cui l'esodo, lo spostamento forzato, furono in qualche modo annacquate e così sbriciolate in questa ideologia trionfante. La guerra fredda probabilmente ha giocato un ruolo anche nel caso italiano, dove, come sappiamo, la questione di Trieste è rimasta aperta fino al 1955 in modo territoriale, e poi dobbiamo aspettare ancora quasi 20 anni per avere un trattati di Osimo, che ha chiuso sul piano diplomatico, almeno per ora, piano diplomatico una volta per tutte, la questione. Quindi forse anche la guerra fredda ha giocato un certo ruolo. Nel caso, e questo naturalmente era una questione molto delicata nell'Alto Adige su Tirolo di allora, e naturalmente è una questione molto delicata anche nell'Alto Adige su Tirolo di oggi. E il saggio di Mezzalira analizza molto attentamente, molto bene la questione. Anche il caso trentino presenta delle peculiarità, delle sue caratteristiche specifiche, quindi è, come dire, forse un po' schematico dire che la questione dell'esodo istriano-dalmata è stata completamente obnubilata, annichilita dalla predominanza poi di altre questioni come la guerra fredda, la ricostruzione economica e poi il benessere, perché poi 10 anni dopo, meno, 7-8 anni dopo, incomincia la grande trasformazione dell'Italia. E allora lì gli esodi si mescolano agli esodi, si sovrappongono agli esodi, all'esodo che stava finendo, perché gli ultimi tratti di questo esodo sono il 52-53, no? All'esodo che stava finendo degli istriano-dalmati si iniziano a sovrapporre le migrazioni interne, che portano milioni di italiani, soprattutto dalle regioni più povere del sud, alle regioni più ricche del nord, in particolare la Lombardia, il Piemonte, ma anche qui, nella provincia di Bolzano, l'immigrazione interna, e quindi ci sono, come dire, ondate di immigrazione e ondate di storie e ondate di identità che si vanno a sovrapporre in qualche modo e a mescolare le une con le altre. Ma non so se questa sia quella che ho azzardato, è un'ipotesi probabilmente discutibile, io poi non ho studiato direttamente questi temi, perché in realtà noi non ne sappiamo ancora troppo poco. E questa è, secondo me, il grande vantaggio e il grande merito di questo piccolo libro. Quindi lo dovete poi tutti comprare, no? Perché ce ne sono. Io non prendo una lira, neanche un euro, lei nemmeno, lui neppure, siamo tutti bravi ragazzi. Però questo piccolo libro, che costa anche poco, scontato, eccetera, ecco, questo piccolo, vede, siamo fortunati, siete fortunati, questo piccolo libro fa una piccola passetto nella direzione giusta, che è quella di collocare il reinsediamento, per usare così, per dir così, naturalmente sono termini tecnici, poi uno che l'ha vissuto e dice, ma come, parlano di reinsediamento per la mia storia, la mia famiglia, mia mamma, mio papà, cioè è chiaro, sono termini, come dire, che nella loro freddezza non rispecchiano naturalmente tutti i carichi emotivi, psicologici e anche materiali che coinvolgono con sé, però per la prima volta si iniziano a studiare in maniera un po' empirica, un po' precisa, il reinsediamento di questi gruppi di istriani e di dalmati che sono andati così vagando senza meta, diciamo così, senza direttive, senza indicazioni se non reti amicali, parentali o voci che si diffondevano, là si sta meglio, là si sta peggio, ti fanno delle case, non ti fanno delle case, ne sappiamo pochissimo e stiamo parlando di 250.000, 300.000, non sappiamo neanche quanti, se qualcuno di voi lo è, siete stati, non lo sappiamo, colpa degli storici, però si inizia pian pianino a fare qualche passetto nella direzione giusta, e questo libro credo vada nella direzione giusta, cioè di cercare di capire quali sono state davvero le condizioni nelle quali queste persone sono state inserite, si sono potute inserire nei diversi contesti nazionali. Ed è la direzione giusta anche perché poi queste persone vengono fatte parlare. Una gran parte del lavoro, sia nella forma cartacea e poi nel DVD che è allegato al libro, una gran parte di persone hanno direttamente testimoniato la loro vita, le loro esperienze. E questo è un'altra strada molto importante, perché la comunità, le comunità istriano-dalmate sono riuscite probabilmente per la loro grande cultura e per la loro forte identità culturale e linguistica, in qualche modo a difendersi in un'Italia che cambiava profondamente negli anni 50-60, anche l'Alto Adige cambiava profondamente in quel periodo, sono riusciti a difendersi probabilmente mantenendo le loro identità, però lo hanno fatto probabilmente in circuiti molto chiusi in se stessi. Non c'è stata interazione, non so perché, forse parlare di colpe non ha molto senso, sono probabilmente delle responsabilità molto generali, molto variegate, ma non c'è stata una vera interazione tra le comunità istriano-dalmate e la società nella quale si inserivano e più in generale la società italiana. Se ne sta iniziando a parlare adesso, i primi libri, sì, ne sono usciti per carità di libri, non c'è dubbio, ma i primi studi importanti iniziano ad apparire adesso. E naturalmente iniziano ad apparire adesso, dagli anni 2000 in poi, con qualche eccezione lodevole degli anni, dei decenni precedenti, perché il tema è diventato anche politicamente delicato, strumentalizzabile. Allora questo, nemmeno questo è giusto. La ricerca storica, per carità, non è asettica. Non è che lo storico sta chiuso in una cella monastica e studia i documenti o riflette o che ne so, fa qualcosa isolato dal mondo che lo circonda. Lo storico sta nel mondo che lo circonda, ci vive, ci sta in mezzo. Allora è chiaro che non si può pretendere dallo storico l'assoluta neutralità o l'assoluta freddezza e asetticità, però nemmeno si può accettare che lo storico si faccia semplicemente portatore di una parte politica, giustificatore di una parte politica, qualunque essa sia. Allora la strada giusta non è quella di mettersi a parlare adesso dell'esodo degli istriano-dalmati perché politicamente è diventato un tema quale non è mai stato nel passato importante. La strada giusta invece che fa questo libro è quella di iniziare a studiare questo tema parlando con le persone, raccogliendo le fonti, che sono fonti orali, fonti dirette, ma che sono naturalmente anche fonti documentarie, che ci sono e che nessuno o pochi hanno finora studiato per la regione, nessuno lo aveva fatto finora. Questo libro lo fa per la prima volta. E va nella direzione giusta, cioè quello di fare una ricerca, che è una ricerca che si colloca nel presente, che capisce che questo è diventato un problema che ora è necessario affrontare, perché non si può continuare ad andare avanti avendo delle pagine bianche o nere, come volete voi, diciamo bianche perché nero può sembrare politico, bianche nella storia nazionale. Non possiamo più avere delle pagine bianche, non scritte, o che vengono scritte soltanto nella piccolissima cerchia degli esuli, dei reduci, diremmo così, no? Se si può usare questo termine un po' militare, e che invece non interagiscono con la società. Bisogna invece fare un'azione di ricerca che metta di nuovo in intreccio, in simbiosi, la società italiana con le esperienze e con i ricordi dei testimoni, con le fonti che ci sono, per cercare di collocare anche questa pagina all'interno della storia nazionale, con tutti i suoi aspetti, con le sue parti positive, che forse non sono molte, e con le sue parti negative e tristi, che probabilmente sono quelle preponderanti. Grazie. Bene, allora ringrazio il pubblico che questa sera è così numeroso, la biblioteca e anche il professor Corni che è stato così generoso con il nostro piccolo volume, che in effetti ha cercato di così ricostruire un piccolo passo. In realtà non è certamente una ricerca esaustiva né finita, è soltanto una traccia che abbiamo cercato di dare e di lasciare. È un libro che parte all'interno di un progetto di ricerca più ampio che si chiama Progetto Memoria per il Trentino, e parte proprio dalla ricerca e dalla raccolta di testimonianze. È un grappolo di questo progetto più ampio che cerca di raccogliere testimonianze sulla Seconda Guerra Mondiale, testimonianze femminili, di partigiani, ma non solo, e anche degli esuli, dei profughi dell'Istria e della Dalmazia. Per questo non è un libro in cui non troverete delle ricostruzioni su quello che è successo in Dalmazia o in Istria, eccetera, anche se naturalmente proprio quegli eventi del 43, 45, eccetera, sono il motore di questo esodo, di questo spostamento di popolazione nel resto dell'Italia. Il risultato di questa ricerca è, abbiamo detto, il volume e anche il DVD, che è una specie di collage delle voci dei 25 testimoni che io ho intervistato, che mescola questi piccoli frammenti in realtà di frasi, di espressioni, cercando di dare un resoconto delle emozioni più che della loro realtà storica, ma cerca di rendere conto, proprio come diceva il professore, di quello che è stata la loro esperienza anche soggettiva, importante, parziale, ma vitale per loro, per le loro famiglie, e sono esperienze. Sì, sono soltanto 25 testimoni, però sono esperienze comunque significative, che hanno una certa che possono avere una valenza anche così esemplificativa, per quanto naturalmente sì, solo 25 sulle migliaia che sono arrivati anche in Trentino Alto Adige. Il libro quindi centra la sua attenzione sul reinsediamento, cioè sull'arrivo, sul viaggio e sull'arrivo di queste persone in Trentino Alto Adige. Il volume è composto da tre capitoli principali, che sono appunto due ricostruzioni che utilizzano fonti classiche, se vogliamo, fonti tradizionali, documenti d'archivio, la stampa, e cercano quindi di, da parte del dottor Mezzalire e del dottor Gardumi, di ricostruire questo che in effetti era un vuoto, la situazione in Trentino e in Alto Adige Sud Tirol, e quindi i problemi concreti che queste persone hanno incontrato: il problema della casa, il problema di trovare un lavoro, il problema dell'estraneità. I problemi forse più soggettivi, più legati alle emotività, emergono nella terza parte, che è quella che mi vede più partecipe, e è appunto quello che emerge dalle testimonianze di queste 25 persone che io ho incontrato. Sono persone che mi hanno raccontato la loro esperienza il più genericamente possibile. Noi al Museo Storico preferiamo non utilizziamo questionari, ad esempio. Utilizziamo un sistema che si chiama la raccolta della storia di vita, cioè io e gli altri collaboratori del museo studiamo la situazione e semplicemente chiediamo un racconto. Un racconto che si coinvolga in questo caso la famiglia di origine, come è stata la partenza, come è stato il viaggio, soprattutto, che per qualcuno è stato veramente lunghissimo, travagliatissimo, e poi l'arrivo. E quindi nel momento dell'arrivo, però, anche come è stato l'incontro con i trentini. Io ho intervistato soprattutto persone che sono arrivate in Trentino, quindi penso più a loro. E quindi questa interazione. Dalla ricerca perciò non emerge soltanto questa nuova definizione che queste persone devono darsi arrivati in Trentino, un posto dove non c'è il mare, dove il clima è completamente diverso. Non so, c'è un testimone che mi dice: io da bambino mi sono svegliato sul cassone del camion la notte arrivando e ho visto le montagne, io non avevo mai visto delle montagne così. Cioè, queste testimonianze sono anche ricche di piccoli frammenti di vita di questo tipo. Ecco, e quindi in questo arrivo c'è anche, però, in un gioco di specchio, il Trentino, i trentini e la difficoltà che c'è stata in effetti nel capire questa situazione e nell'aiutare queste persone. Un aiuto che magari è venuto più dalle istituzioni pubbliche, sembrerebbe, dalle mie testimonianze, ma in effetti anche dalle ricostruzioni, mentre i testimoni lamentano una certa freddezza proprio nella popolazione. Il Le interviste sono state possibili anche perché c'è stato un importante aiuto da parte dell'Associazione Nazionale degli Esuli della Dalmazia e della Venezia Giulia, che ha un comitato provinciale in Trentino, ma uno sicuramente anche in Alto Adige, che ci ha fatto un po' da intermediario e quindi ci ha permesso di entrare più facilmente nei favori di queste persone, che ci hanno dato poi la disponibilità ad essere intervistate. Questo fatto, questo intermediario, però naturalmente ha anche delle conseguenze, cioè le memorie che abbiamo raccolto sono memorie di soci dell'associazione e quindi sono persone che hanno una consapevolezza del loro passato e che ci tengono in un certo senso a questo passato, tanto appunto da iscriversi ad un'associazione che determina la loro, così, che li raccoglie. Ecco, in questo da questo rapporto con l'associazione, che non per tutti era semplice, possiamo, non so, il professore diceva su una memoria magari separata dal resto della popolazione. È vero, l'associazione, per quanto almeno io ho verificato, in effetti ha fornito a molti un luogo anche così emotivo in cui raccogliersi e raccontarsi. Alcuni testimoni invece mi hanno detto: no, io mi sono iscritta da pochissimo perché prima mi vergognavo e non volevo far parte di questo gruppo separato, volevo dimenticare il mio passato e volevo essere trentino. Quindi, insomma, il campione è piccolo, ma al suo interno anche molto, molto variegato. Le interviste e il mio racconto si sviluppano su tre nuclei forti, cioè l'infanzia, perché in realtà questi testimoni all'epoca della guerra avevano, o prima della guerra, erano bambini, quindi l'infanzia, la guerra, e nella guerra l'esplosione della confusione, della paura di un nemico che non sanno più chi è, di relazioni con i vicini di casa che improvvisamente cambiano, non sanno di chi possono fidarsi, senza parlare poi del momento della violenza, con la paura, con i genitori di alcuni che scompaiono, questo lascia poi dei segni indelebili nella loro esperienza. E poi l'arrivo, e con l'arrivo qui il cambiamento. Questi testimoni, bambini, adolescenti, non si riconoscono nello sguardo che li guarda. Cioè loro vedono nei trentini uno sguardo di incomprensione, non si vedono, molto spesso vengono da famiglie che nei loro paesi erano abbienti o comunque avevano la loro casa, invece qui non hanno niente molti, e quindi una grossa difficoltà di ridefinizione del sé, di riposizionamento in una società nuova. Ecco, un po' questo, insomma, è un libro che ha cercato di tenere insieme sia una ricostruzione istituzionale, storica, e anche però di raccogliere appunto la loro testimonianza. Molti per la prima volta si aprivano, e non è stata un'esperienza facile neanche per me, devo dire. In realtà nell'intervista si parla di oggettività, ma non è una categoria da non utilizzare, perché è un incontro tra due persone, tra me e il testimone, quindi è proprio una relazione che si viene a creare. Il volume di tre giovani bambine all'epoca, e ora naturalmente adulte, sono tre memorie di bambine che vivono la guerra da punti di vista leggermente diversi, ma che nel giudizio sulla guerra e nel comunicare la propria paura sono incredibilmente simili. Due sono due bambine del gruppo italiano di Pola, una invece è una donna che ha la madre italo-slovena. Eppure, nonostante questo, i ricordi sono diversi quando si parla del ventennio fascista, naturalmente perché si vive la dittatura in maniera un po' diversa, ma però l'esperienza della guerra ritorna in maniera molto simile. Ecco, lascio la parola al dottor Mezzalira, che magari non so, può illustrarci meglio il caso Trentino. Vi ringrazio. Io parto anche dalla stessa premessa che faceva prima di me Elena Tonezzar. Si tratta di un approccio al tema. È un tema di ricerca che si è appena iniziato. Anche il mio contributo è una sorta di sondaggio per capire, per avere i contorni di una problematica. Io ho incrociato il tema dei profughi interessandomi dell'immigrazione italiana in Alto Adige sia nel ventennio che nel dopoguerra. L'ho incrociato e ho cominciato ad appassionarmi perché si tratta di una storia complessa, articolata, in cui la memoria si mescola con la storia, in cui i numeri cominciano ad avere un significato oltre al termine, al contare, il numero come dato. E, partendo proprio da questo, dalla difficoltà di definire anche quale fosse la cifra quantitativa, cioè il dato quantitativo di questa immigrazione, viene fuori la difficoltà di qualsiasi censimento, soprattutto nelle zone, nei territori di confine, dove le statistiche hanno un valore politico, evidentemente, lo ricordava prima il professor Corni. Qual è la prima domanda che, insomma, le domande sono due. Quanti sono e chi sono? Io sono partito da queste due considerazioni per cercare di avere un'idea. Quali sono le fonti, poi, soprattutto? Dove si cercano i numeri sull'esodo di Giuliano Dalmati in Alto Adige? Ci sono tre fonti. Io ho trovato tre fonti, sostanzialmente. Una che ho appena iniziato a guardare, ed è lo schedario di Alfredo Negri. Alfredo Negri era responsabile dell'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia nel dopoguerra e tenne uno schedario sugli esodati, gli esuli. Lo teneva sia perché aveva un valore, lo ebbe poi di fatto un valore importante, perché era un po' il cervello, la memoria di questa comunità, ma sia perché evidentemente era importante censire i profughi, perché senza un adeguato censimento dei profughi non si capiva qual era che cosa gli serviva, chi erano e a chi bisognava dare qualcosa in quanto profugo. Questa era la prima fonte di cui poi parliamo. La seconda fonte che ho potuto consultare sono l'archivio del comune di Bolzano, in cui c'era una cartella, me la ricordo, io adesso ricordo abbastanza vago perché si parla di circa 15 anni fa. Sono sceso in archivio accompagnato dall'archivista di quel tempo, Christoph von Hartungen, che mi diede la possibilità di guardare la cartella delle domande per la richiesta di profugo e ho potuto consultarle. Quella è la seconda fonte. La terza fonte è l'indagine statistica di Amedeo Colella. Amedeo Colella fu incaricato dall'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia per censire lo stato dei profughi al 55, cioè il 55 l'anno dopo Trieste sostanzialmente, si fece un'idea, si volle avere una fotografia di quanti e di dove fossero dislocati i profughi. Diciamo che il fenomeno dei profughi poi si esaurisce verso il 61, sono pochi, il flusso è fino alla metà degli anni 50. Ecco, queste tre fonti. Da queste tre fonti salta fuori un dato approssimativo, evidentemente. C'è da dire che lo schedario di Negri, ad esempio, censisce i profughi dopo il 45, ma noi sappiamo che già in Alto Adige c'erano persone provenienti da quelle terre venuti subito dopo l'8 settembre 43, ma alcuni erano stati trasferiti tra il 19 e il 43 ed erano sostanzialmente funzionari che venivano spostati da quelle terre, venivano a svolgere la loro funzione in Alto Adige. Quanti erano? Una cifra approssimativa sui 3.000, è stata censita. Diciamo che questa cifra va anche presa, come si dice, con le pinze, perché poi alla fine non tutti gli esodati emersero quando si fece questa prima statistica, perché evidentemente funzionava un po' anche quello che si diceva prima, c'era qualcuno che non voleva uscire alla luce quando si trattava di regolarizzare la propria posizione. E quindi anche questo dato risulta, non si legge nelle cifre, ma si legge attraverso le cifre, evidentemente. Quindi parliamo, ripeto, di stime approssimative. Però diciamo che la consistenza dovrebbe essere più o meno quella. La consistenza, tra il resto, è importante perché, lo vedremo fra un po', si scrive, cioè, diciamo che questa idea della consistenza sulle 3.000 unità ce l'abbiamo verso la metà degli anni 50. Ed è un momento importantissimo, perché negli anni 50 si scatena qui in provincia una polemica molto forte, molto aspra, sul peso dei diversi gruppi, sulla consistenza numerica dei diversi gruppi. Vengono fuori delle cifre allarmanti, vengono sulla presenza italiana, e si dice che arrivano gli italiani e c'è la seconda italianizzazione forzata. Ecco, teniamo presente questo dato perché poi ci aiuta un po' a capire quale ruolo ha avuto, quale peso politico poi alla fine ha avuto anche questa presenza dei profughi in Alto Adige. Io rilevo dall'indagine di Colella un dato interessante che può anche dare un'idea circa il peso, un'idea sulla stima del peso di questa comunità nella popolazione complessiva. Secondo Colella, nella regione Trentino Alto Adige c'erano al 55 2097 profughi censiti dall'allora indagine, con tutte le attenzioni che abbiamo detto prima, da prendere con tutte le attenzioni che abbiamo detto prima, su una popolazione di 758.000 abitanti circa, quindi un peso insomma relativo, però era evidentemente una presenza qualitativamente importante, sia da un punto di vista del bisogno che questi profughi avevano e da un punto di vista anche della reinserirsi, ritrovare un proprio ruolo dentro ad uno Stato che insomma aveva fatto anche fatica ad accoglierli, no? Fatica ad accoglierli, perché quando arrivano i profughi di fatto sono l'immagine dell'Italia sconfitta. C'è bisogno evidentemente di mescolarli, tant'è che il governo decide di evitare che i profughi fossero trasferiti e fossero rispostati creando dei nuclei. Cioè quando i polesi partono da Pola e il CLN di Pola chiede di trovare una soluzione per questi esodati e propone la costruzione di una nuova Pola, prima si propone la Puglia, poi insomma si avanzano determinate ipotesi, il governo fa capire chiaramente che era fuori discussione questa soluzione. Altro elemento da tenere presente, perché poi quando riparliamo del ruolo e del peso di questi profughi in Alto Adige, questo diventa un altro elemento interessante da tenere presente. Chi erano? Io quando ho cominciato a sfogliare le domande per la richiesta della qualifica di profugo, ho cominciato a contare moltissime persone di quelle che potremmo far rientrare nella categoria della cosiddetta piccola, media e alta borghesia, cioè diciamo ceto medio sostanzialmente. Ed è interessante perché l'idea che abbiamo, almeno in Alto Adige, almeno io ho avuto fino al momento in cui ho preso in mano queste carte, era l'idea che ci fosse un esodo sostanzialmente di ceto medio. In Alto Adige fu così, Ma l'esodo, di fatto, a livello nazionale, nell'esodo, a livello nazionale, la componente operaia era quella prevalente. La componente operaia incideva per il 46,5% di tutti gli esodati. Mentre in Alto Adige arrivò prevalentemente borghesia. Prevalentemente arrivarono gli avvocati, arrivarono gli insegnanti, arrivarono molti commercianti, arrivò anche una componente piccola operaia, arrivarono anche manovali, muratori, insomma, diciamo, non ceto medio, ceti più popolari, ma il vero, se oggi si dovesse qualificare, se si dicesse qualifica l'immigrazione, cioè qualifica